El triunfo de Baco in Barquín. Quanto bea sea la gallesa, e a carneval che ognun lo sia, chi vuol essere sgaio sia, e il Barquín doman torna in barchessa. Questi son 30 amici lieti, bei, zente sceta, marinanti, stanno la zenda cusita, imbarcai per star contenti. E ste dame e voi altri intorno, ste allegri tuttavia. Chi vuol essere sgaio, sia. E il barchin doman torna in barchessa. Questi lieti bei ometti della vita innamorai, per calete e portisoi, tutto l'anno i garematra feai. Or da Baco riscaldai, i baia, i salta tuttavia. Chi vuol essere sgaio, sia. E il barchin doman torna in barchessa. Queste donne che liete han caro ciò che conta veramente, le sa rider lietamente, e buon sangue se sa non mente. Ora insieme qui imbarcae, le sona, le canta tuttavia, chi vuol essere sgaio sia, e il barchin doman torna in barchessa. Netun non vien drio a sta bea zente, e il forcon qua in effetti non gli serviria a niente. Zente allegra, il ciel l'aiuta. Cosa serve immusonirsi col tridente? Che dolcezza ha avuto che il senta chi non sorride tuttavia? Chi vuol essere sgaio sia, e il barchin doman torna in barchessa. Ciascun versa ben le recce, del domani nessun se garantio. Oggi sian giovani e vecchi, lieti ognun tutti in arengo. Ogni tristo pensier è il vaga ramengo, fasen festa tuttavia. Chi vuol essere sgaio sia, e il barchin doman torna in barchessa.